Ricordate, dovete contare quanti nodi vanno fatti ogni 2 cm su una ferita lunga 12 cm. E attenzione, non vi basterà dividere la lunghezza per 2, perché nel conto va incluso anche il nodo iniziale, al centimetro zero.